Ci sono cose che mi confondono i pensieri. Ci sono cose che ci sono cose che mi confondono i pensieri. Ci sono cose che per ogni attimo di vita in me sciolgo giorni come zucchero nel tè. È un movimento senza fine, è il fuori tempo ai confini del pattume. Vita fatta disfatta, a volte un po' distratta, ti si ritorce contro il fondo, poi si tocca, va che torna a casa a pezzi, sguardi, gesti, mia madre con la spesa nella borsa. È da circa un bel po' che so che è tutto fatica costa, occhio, troppe candeline sulla torta. De sto b-boy che di giorno veste la cravatta, ed ora so che tutto gira intorno a me. Stermino rimpianti un po' sparsi, ho visto amici persi, vinti darsi, ridursi a stringersi un laccio sul braccio. Conosco chi per amore si è ridotto uno straccio. Guarda in faccia la realtà e siamo già schiavi di bollette, lotto, lancette, e verso le sette spalmo questa vita su pane biscottato fatto a fette. Non trovo più le chiavi del successo, ora dove cazzo l'avrò messe? Ci sono cose che mi confondono i pensieri. Ci sono cose che ci sono cose che mi confondono i pensieri. Ci sono cose che gli anni 50 e Betty Page, gli anni del 2000 anfibi rollerblade. Giorni di riga presi a naia, giorni di sfiga presa in giro, un portacenere, una birra e poi sconto. Passi falsi, in questo mondo dove è meglio darsi per dispersi. Noi, pieni di difetti e di problemi, domande sommersi. Mannaggia, che vitaccia, sta vita mi schiaccia. C'è chi più passa e più mette su pancia. Voglia chi molla, sta vita una giostra. Le cose non si fanno più, se non di corsa. La vita è ingiusta e sorride solo a chi la strozza. E anche se lancio testa o croce non trovo risposta, perché siamo chiusi in una morsa di uno stipendio che non basta, ridotti a farsi i conti in tasca, a tirar la cinghia. Assomiglia ad un bel gioco questa vita. Ci sono cose che mi confondono i pensieri. Ci sono cose che ci sono cose che mi confondono i pensieri. Ci sono cose che cose che